L'appuntamento con il cinema visionario il giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, oppure sulla pagina Facebook di visionari. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Sul sito trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 19 dicembre, nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, poi gli altri appuntamenti della settimana in Italia tra festival, rassegne e proiezioni, il link per riascoltare la puntata della scorsa settimana e poi l'archivio del 2013 e del 2012. Cominciamo con un po' di anticipo perché c'è un vuoto intanto, tanti ospiti. Allora cominciamo con i collegamenti, oggi parleremo soprattutto di documentari. Il primo collegamento è con Marco Preti, regista del documentario Sulle tracce dei ghiacciai. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ci sei? Sì, ci sono io. Eccoci qui. Allora, ero venuto a conoscenza di questo tuo lavoro che era presente nel catalogo del Clorofilla Film Festival Sulle tracce dei ghiacciai. E cos'è, di cosa parla questo lavoro, Marco? Sulle tracce dei ghiacciai è un progetto che comprende 4 o 5 spedizioni. Quello a cui ho partecipato io è quella in Caucaso, e appunto il documentario si chiama Missione in Caucaso. Sì, continua, sì. Vai, raccontaci un po'. Pensavo di essere... Senti, il posto è estremamente interessante, il Caucaso Maggiore. Siamo in Georgia, per cui anche dal punto di vista politico per anni la Georgia è rimasta ai margini dell'Unione Sovietica, quindi poco conosciuta, poco studiata, soprattutto dal punto di vista proprio glaciologico, perché la spedizione in realtà è formata da due concetti. Uno è quello fotografico, sì. Che consiste nel comparare degli scatti fotografici fatti 100 anni prima, quasi tutti fatti da Vittorio Sella, e l'altro invece è quello glaciologico, cioè occuparsi della diminuzione di massa del ghiacciaio controllando i lavori fatti precedentemente, in questo caso fatti dai russi negli anni 60, e confrontarli con i dati raccolti sul campo durante la nostra spedizione. Senti, quali sono i risultati rispetto, ecco, a 30-40 anni di distanza da una rilevazione all'altra? Ah, sono terrificanti, sì. Sono terrificanti. È esponenziale la velocità con cui si stanno diminuendo le masse glaciali. Siamo anche abbastanza a sud come latitudine e in una zona abbastanza fredda, diciamo, per essere a quella latitudine, perché con le grosse precipitazioni. Però insomma, io posso essere più chiaro sul mio lavoro di filmmaker, più che tutto dalla parte glaciologica, anche se mi affascina come argomento. Ti posso dire che è stato molto bello, insomma, io sono vengo dalla montagna, nel senso che ho cominciato a avvicinarmi alla cinematografia attraverso l'attività alpinistica, per cui ho un occhio particolare nel raccontare la gente di montagna, o il viaggio in montagna, o la scalata, o le montagne stesse. Per cui per me è stato bellissimo, perché sapevo di ste posto che ha una grande tradizione alpinistica, anche perché gli alpinisti a Maestia, la capitale di questa valle della Svanezia, che è appunto la valle più settentrionale del Caucaso Maggiore, e gli alpinisti sono venerati, nel senso, come i calciatori da noi, per intenderci. Sì. Senti, il viaggio che durata ha avuto, che percorso, che tipo di percorso avete fatto anche? È stato un mese e mezzo circa, adesso non ricordo bene esattamente. Siamo partiti da Roma, dove con noi c'era anche quest'altro glaciologo, c'erano due glaciologi, Riccardo Scotti, che lavora all'Università di Milano, alla Bicocca, e Ken Hewitt, che è un glaciologo di grande fama, un signore 75enne che ha compiuto proprio 75 anni durante la spedizione, ma con una grinta, una voglia, una determinazione ancora fortissima. Ci siamo trovati tutti a Roma e poi siamo andati a Tbilisi, la capitale della Georgia, e poi in auto ci siamo fatti portare fino a, perché hanno appena aperto la strada, fino a questa Mestia, che è un villaggio che nelle fotografie di Vittorio Stella appare proprio come questi villaggi in fondo al mondo, con delle torri dentro le quali si nascondevano gli uomini perché avevano paura di faide interne e quindi non si fidavano a dormire così di notte in una casa normale, si chiudevano in cima a questa torre. E oltre al lavoro fotografico, diciamo quello cinematografico, raccontava l'avventura appunto di Fabiano Ventura, che è poi il leader di questa operazione, e attraverso i suoi scatti fotografici appunto si narrava sia da quanto stanno calando le masse glaciali, ma anche, grazie a Dio, quanto bella era ancora questa parte delle valli del Caucaso. Sì. Senti, per chi ci ascolta, anche se insomma tutto è abbastanza già noto, però dal punto di vista ecologico, che conseguenze dirette hanno queste riduzioni dei ghiacciai? Le conseguenze sono fortissime, perché i ghiacciai, anche quelli alpini ovviamente, che cosa fanno? Durante l'estate producono, con lo scioglimento della massa glaciale, producono acqua che la scaricano dentro nei loro torrenti, che prima sono dei torrenti ripidissimi con cascate che escono dal ghiacciaio, dalla testata del ghiacciaio, e poi si incanalano nelle valli e sono loro a tenere alimentati i fiumi. Sì. E quando le masse glaciali finiranno, i fiumi diventeranno stagionali come in Africa, cioè quando ci sarà la pioggia ci saranno i fiumi, finito i ghiacciai. È vero che ci sono un sacco di depositi nelle falde acquifere che tengono la maggior parte dei fiumi alimentati, ma è anche vero insomma che senza i ghiacciai non avremo più questo fluire dell'acqua tutta l'estate, tutto, con immaginabili conseguenze. Sì, sì. Oltre al fatto, immagino, per quello che so insomma, che i ghiacci, riflettendo la luce solare, impediscono il surriscaldamento della crosta terrestre. È un equilibrio, diciamo che se vuoi, noi sulle Alpi abbiamo dei piccoli ghiacciai in punta alle montagne, sono talmente piccoli che non hanno, però i grandi ghiacciai del Polo Nord, per intenderci, o dell'Antartide, quelli sì. Sì. Oh Marco, ricordiamo anche più complessivamente, ecco, l'ampiezza di questo progetto, che come dicevi è fotografico, non solo cinematografico, rispetto ai ghiacciai. La prima spedizione è stata fatta in Karakorum, nella valle del Baltoro, ai piedi del K2. Sì. La seconda, appunto, a quella alla quale ho partecipato, è in Caucaso. E questa, l'ultima che è stata fatta, è stata fatta quest'estate in Alaska, sempre ghiacciai, in questo caso ghiacciai con fronte che si affaccia sul mare. Ne sono previste altre di tappe? Penso di sì, dovrebbe esserci quella, una finale, che è dedicata invece alle Alpi nostre. Quindi le aree geografiche anche piuttosto distanti l'una dall'altra, complesso. E Marco, che ne sarà di questo vostro documentario? Che tipo di fruizione potrà avere? Se penso o a una distribuzione online o cinematografica, insomma. È stato prodotto da Roberto Dall'Angelo, dalla sua casa di produzione, che è molto specializzata in documentari estremi o di natura. E non lo so, francamente, purtroppo i documentari di questo genere finiscono abbandonati a una distribuzione che è soltanto locale, nel caso appunto di film festival legati all'avventura o alla natura. È difficile trovare una collocazione anche di distribuzione per i documentari. E c'è un vostro sito internet di riferimento per avere maggiori informazioni? Io credo che sì. Mi sembra sia Macro Micro, l'associazione di Ventura. Bene. Che se ne occupa. Bene. Marco, io ti ringrazio, magari ci sentiamo per delle prossime novità cinematografiche. Volentieri. Legate alla tua passione alpinistica. Va bene. A presto, ciao. Grazie Marco, un abbraccio. Ciao a tutti. Marco Preti, regista del documentario Sulle tracce dei ghiacciai, presentato all'interno del Clorofilla Film Festival della scorsa estate. Oh, per quanto riguarda la puntata di oggi, vado anche ad elencare quelli che saranno gli ospiti. Oltre a Marco, dovremmo sentire Stefano Croci, regista del documentario Visioni dalla terra di confine, Daniele Marzeddu, regista del documentario Gli zoccoli nuovi, miglior documentario alla seconda edizione del Festival Il gusto della memoria, e poi Alessandra Celesia, regista del documentario Mirage à l'italienne, menzione speciale alla settima edizione del Salina Doc Fest, e poi Francesco Di Martino, regista del documentario Ustissu Sangup, che è la proposta del mese di distribuzioni dal basso, Roberto Silvestri, direttore della 31esima edizione del Sulmona Film Festival in pieno svolgimento dal 18 al 21 dicembre, Alberto Crespi, neo direttore di Bianco e Nero, storico quadrimestrale del Centro Sperimentale di Cinematografia, Donatello Fumarola, coautore del libro Atlante sentimentale del cinema per il 21esimo secolo, che sarà presentato domani sera qui a Roma al Teatro Valle Occupato. E poi in chiusura il regista Marco Pontecorvo, che ci parlerà del quarantennale dell'operazione Ogro, da cui poi è stato tratto, cioè ha ispirato un libro che ha raccontato dettagliatamente quella missione, e poi da quel libro è stato tratto il soggetto per il film Ogro, l'ultimo di Gillo Pontecorvo, che è il padre di Marco, che avremo ospite al telefono, che è stato tra l'altro l'ultimo film di Gillo. Tutto questo al Teatro Valle Occupato invece domenica, per quanto riguarda Ogro. Continuiamo con i nostri ospiti. È con noi Stefano Croci, regista del documentario Visioni dalla terra di confine, che è stato uno dei documentari in concorso al Via Emilia Doc Fest, il festival online che mette insieme circa 20 titoli che poi tramite le visioni del pubblico decreterà quale è stato il vincitore. Dell'edizione di quest'anno ne abbiamo parlato con loro del Via Emilia Doc Fest, e piano piano stiamo cercando anche di ascoltare la voce dei registi che hanno partecipato. Stefano Croci è il regista di Visioni dalla terra di confine. Intanto benvenuto a Radio Onda Rossa, a Visionari, Stefano. Grazie a te. Allora, Visioni dalla terra di confine, geograficamente dove siamo? Allora, Visioni dalla terra di confine riguarda un'area che è compresa tra Modena e Bologna. È un'area che comprende sia le colline che la pianura, quindi un ampio paesaggio rurale, seppur negli ultimi 50 anni sia stato aggredito, diciamo, da un'intensa attività edilizia. Più o meno che estensione ha? Qui mi coglio impreparato, sui numeri mi coglio impreparato, però tra Modena e Bologna penso che sia il comune di Roma, visto che tu mi chiami da Roma, sia il diametro di Roma. Sì, quindi una vasta, piuttosto vasta area, insomma. Sì. E allora, intanto ti chiedo cosa ti ha spinto a fare questo tipo di indagine. Allora, innanzitutto, io vengo decretato come regista, ma noi lavoriamo molto in gruppo. Faccio parte di Caucaso Factory, che ho fondato con Enrico Masi circa a inizio del 2000, e noi siamo cresciuti in quest'area, quindi l'abbiamo proprio vissuta. Noi sì, quando eravamo anche più giovani andavamo in questi boschi, in questi calanchi, in queste ville, in questi terreni a passare le nostre giornate. Noi siamo proprio, quindi l'abbiamo proprio respirate queste atmosfere, oltre che i luoghi. E il documentario nasce da una commissione, in realtà una commissione da parte della regione Emilia-Romagna con un altro ente che si chiama LIFE, che è legato a un progetto dell'Unione Europea. Poi noi abbiamo sviluppato questo documentario, che è quasi una videopoesia, per questo evento. Ho una vasta area boschiva e di campagna con una lunga tradizione contadina. Ecco, qual è la sua storia e qual è la sua condizione attuale? In quest'area è un'area che comprende principalmente due valli create da due fiumi ed è caratterizzata appunto sì da aree boschive, aree coltivate, aree dove ci sono i cosiddetti calanchi, che sono emergenze che composte principalmente d'argilla e caratteristiche della zona bolognese e modenese. E queste aree sono attualmente si conservano ancora molti edifici di epoche storiche precedenti, dal 500 agli inizi del 900. Sì. Possiamo trovare veramente dei monumenti, sono proprio dei veri e propri monumenti, testimonianza della civiltà che viveva qui. Principalmente erano aree che venivano utilizzate per la coltivazione e quindi si trovano ville che venivano utilizzate dalle grosse famiglie come residenze estive oppure come casolari di controllo del lavoro in campagna. Attualmente sono aree, soprattutto quelle pianeggianti, come dicevo prima, aggredite da un'intensa attività edilizia, perché nascono queste case lungo tutta la via Emilia, che è una, per chi non lo sa, è una via che collega Bologna e Modena e attraversa tutta l'Emilia Romagna, e quindi attività commerciali, edifici crescono proprio come credo anche poi sta succedendo in tutta Italia a vista d'occhio. Sì, consumo di suolo, una delle caratteristiche delle zone pianeggianti, una delle conseguenze più dannose proprio per quanto riguarda le aree coltivabili, e dall'altra però c'è anche un fenomeno di abbandono dovuto all'urbanizzazione. Sì, esatto, tutti si reimpostano la propria vita secondo uno standard totalmente differente da quello di 50 anni fa, e tutte le persone sono convogliate in questi centri, e le aree più difficili e lontane dai grossi centri vengono abbandonate. Diciamo che qua possiamo vedere anche un fenomeno di leggera tendenza inversa, in quanto molti immigrati affittano queste case, in quanto l'affitto è veramente basso, e si muovono con i mezzi pubblici o trovano lavoro in quei luoghi dove le persone originarie non abitano più. Ecco Stefano, ti volevo chiedere, questo vostro viaggio vi ha portato anche a incontrare persone, e cosa vi raccontano del loro vivere lì? Loro, soprattutto anziani, ci hanno lasciato, ci hanno trasmesso una dimensione poetica di questi luoghi che forse scomparirà con loro, perché poche persone hanno modo di rimanere in contatto con loro e con questa cultura che è trasmissibile sì dai luoghi, dagli edifici, così, però anche ci sono certe cose che solo il contatto umano può. Certo. Potrà mandare. Stefano, per quanto riguarda il documentario, dove è, dopo questo credo due mesi sia stato online per il Via Emilia, dove sarà possibile? Avrà una distribuzione, qualche tipo di distribuzione in sala oppure online? Che futuro avrà? Allora, noi già è distribuito a livello locale, quindi in molte occasioni nelle zone appunto anche ritratte dal documentario è già stato proiettato, e quindi continuerà questo tipo di distribuzione locale. Attualmente stiamo lavorando ad altri progetti un po' più grossi, quindi non credo riusciremo a dedicare molto alla distribuzione di questo documentario, perché abbiamo completato un documentario lungometraggio sui beni confiscati alla mafia, e siamo in produzione con un documentario su maestri buddisti italiani, sempre lungometraggio, che uscirà nel 2014. Ecco, proprio in base a questo che dicevi della confisca dei beni mafiosi, ecco, ci sono anche rispetto alla zona che avete osservato dei fenomeni di controtendenza rispetto per esempio alla coltivazione, a giovani che tornano a riutilizzare quelle terre abbandonate? Sì, certo, ci sono molti fenomeni, e anche addirittura dei miei amici hanno fatto quella scelta, e devo dire che spesso funziona, perché poi questo è accompagnato anche da una ricerca anche di un nuovo tipo di alimentazione più sana e che cerca anche di dare valore ai luoghi e al lavoro che è stato fatto per ottenere questo cibo. Bene, io ti ringrazio Stefano. Ci sono dei riferimenti online per saperne di più? Sì, www.caucaso.info troverete tutto quello che abbiamo fatto. Bene, un abbraccio e alle prossime novità allora. Anche a te. Ciao a tutti. Stefano Croci, regista del documentario Visioni dalla terra di confine. Continuiamo, questa è Visionari su Onda Rossa. In collegamento con Daniele Marzeddu, regista del documentario Gli Zoccoli Nuovi, che è stato premiato come miglior documentario alla seconda edizione del Festival Il Gusto della Memoria. Benvenuto a Radio Onda Rossa, Visionari, Daniele. Ciao, buongiorno da Bologna. Allora, intanto restiamo in Emilia Romagna, perché abbiamo appena sentito Stefano Croci per Visioni dalla terra di confine. Volevo chiederti intanto, per chi ci ascolta, cos'è questa bella iniziativa del Gusto della Memoria che è giunto alla seconda edizione? Il Gusto della Memoria è un festival che si svolge a Bracciano, quindi vicino alle vostre parti, con un archivio che mette a disposizione i materiali delle famiglie, quindi filmati amatoriali, per svolgere un contest, quindi creare un film praticamente di montaggio. Cioè si scelgono le parti più fondamentali, le immagini più belle per costruire una storia e poi creare un film sostanzialmente di montaggio con il 60% delle immagini d'archivio. 60% delle immagini d'archivio, ecco, quante ore sono a disposizione rispetto a questo archivio? Che mole c'è di memoria? C'è un bel po' di materiale, adesso non te lo so quantificare perché è veramente tanto, poi tanto, soprattutto sono... Che provenienza? Soprattutto famiglie? Sì. Immagini amatoriali dagli anni 30 fino, diciamo, al fine 70, quindi una bella mole di diversificazione di formati, da Super 8 all'8 mm. Ci sono anche alcuni formati di negativi fotografici digitalizzati, quindi una bella scelta per i concorrenti. Senti, la storia che hai voluto raccontare, di cosa racconta appunto Gli Zoccoli Nuovi? Gli Zoccoli Nuovi, io avevo fatto qualche anno fa un altro film che si chiama Sorpasso d'Asino, ed è un film che parla di come, diciamo, vengono tra virgolette usati, mi scoccia anche usare questo verbo, perché non si usa un animale, ma diciamo si vive con lui. Quindi questo film parlava di asinari che accompagnano le persone assieme agli asini, e ho voluto approfittare di questo contest perché sostanzialmente si parla anche di storie di emigrazione, cioè persone che vivevano in campagna, in Abruzzo, in Sardegna, in Toscana, che hanno dovuto lasciare i propri asini e sono tornate poi con le nuove generazioni verso questi posti lasciati dai nonni. E quindi Gli Zoccoli Nuovi, proprio perché è un nuovo modo di vedere gli animali, vedere gli asini. è stato un bel esperimento che proprio mi ha emozionato nel montarlo con queste bellissime immagini d'archivio anche della Sardegna. Ecco, proprio a questo proposito, che lavoro è stato? Quanto hai impiegato intanto per visionare il materiale e poi per decidere quale scegliere per assemblare? Ma mi sono scaricato un bel po' di, ho fatto una ricerca per categoria, per argomento, quindi animali, Sardegna, poi mi interessava anche un po' la questione legata al carnevale, perché per esempio ci sono alcune maschere in Sardegna che hanno proprio l'aspetto di animali, per cui ho voluto fare una ricerca anche sugli anni 70, i carnevali degli anni 70, e poi ho voluto insomma fare un montaggio di tipo proprio suggestioni di ricordi anche non solo visivi ma proprio di suoni. Infatti c'è una sequenza negli Zoccoli Nuovi dove si parla della guerra, del padre di quest'uomo abruzzese che fu salvato da un asino, e quindi ho voluto ricreare il suono delle bombe con il suono del vento che avevo registrato per sorpasso d'asino. Quindi è stato un bel lavoro, direi. Sono proprio contento proprio per le emozioni che mi ha dato il montaggio con le immagini d'archivio. Ecco, in base a quello che mi dici ho capito che il materiale proviene da un po' da tutta Italia, e chi è che poi qual è l'entità che lo gestisce, chi materialmente, quale fondazione? Dunque c'è la Suricata Production, che diciamo è la casa di produzione che sta a Roma e a Bracciano. Sì. Poi c'è l'associazione Come Eravamo di Bracciano, che gestisce proprio tutte le parti dell'archivio. Quindi è un'associazione culturale deputata anche al ricevimento di film di famiglia che altrimenti non si potrebbero vedere in casa. Quindi loro li digitalizzano, li conservano e forniscono poi magari il DVD o il formato digitale a chi porta i filmati, e fanno in modo poi di creare questi contest per far rivivere la memoria, per far rivivere le immagini d'archivio. Sì. Oh, si tratta della seconda edizione. Che tipo di partecipazione e poi di riscontro siamo arrivati? Ma direi buono, anche perché poi erano coinvolte anche le scuole, sono stati fatti vedere dei filmati antichi, insomma, sono già, l'associazione è già lì che pensa alla terza edizione, quindi direi che il riscontro è stato buono. C'è decisamente interesse per questo tipo di cinematografia del recupero, lo vorrei chiamare così. Senti, volevo chiederti anche i riferimenti per quanto riguarda internet sugli zoccoli nuovi, anche sulla tua attività in generale, Daniele. Certo, guarda, adesso stiamo aspettando di montare definitivamente con l'alta definizione per quanto riguarda gli spezzoni d'archivio, dovrebbe essere distribuito su cinemaitaliano.info. Benissimo. Quindi potrete visionare il trailer e poi acquistare il DVD proprio da cinemaitaliano.info. Bene. Io sono a Bologna, attualmente con Giuliano Bugani abbiamo fondato questo sito di controinformazione documentaristica sociale che si chiama indiegroundfilm.com. Stiamo lavorando su un documentario che riguarda i tagli alla sanità in Emilia-Romagna, perché pare che dal 2014 chiuderanno gli ospedali e questo non va bene. E certo, tra l'altro Giuliano è uno dei nostri ospiti ricorrenti, lui si definisce sì, regista operaio, insomma. Il regista operaio. Esatto, quella è la sua attività e riesce a coniugare tutte e due le, insomma, i lavori, sia quello di cineasta che quello, insomma, che gli dà da vivere, che è l'essere operaio. Bene, avremo modo allora sicuramente di risentirci in seguito per quanto riguarda la vostra attività. Daniele, un abbraccio e un buon proseguimento. Un abbraccio a tutti i compagni di Roma e tante belle cose e forza, stiamo uniti. Ciao Daniele. Ciao, ciao, grazie. Bene, Daniele Marzeddu, regista del documentario Gli Zoccoli Nuovi, miglior documentario alla seconda edizione del Festival Il Gusto della Memoria in quel di Bracciano qualche tempo fa, nell'autunno scorso. E siamo ora in collegamento con Alessandra Celesia, che ci contatta dalla Francia, da Parigi, che è la regista del documentario Mirage à l'Italienne, che ha avuto la menzione speciale ad un altro festival che seguiamo fin dalla prima edizione, la settima edizione del Salina Doc Fest. Alessandra, benvenuta a Radio Onda Rossa Visionari. Grazie, buongiorno. Allora, è un piacere averti con noi. Mirage à l'Italienne, un importante riconoscimento di questo lavoro. Che cosa ci racconta Mirage? Mirage è la storia di cinque torinesi praticamente che rispondono ad un annuncio per andare a pescare, a mettere in scatola il salmone in Alaska, e quindi diciamo che è un po' un viaggio della speranza di cinque persone che hanno ognuno dei motivi molto forti, anche molto intimi, di partire, non solo la crisi economica del nostro paese, ma forse dei motivi più profondi, e che attraverso questo viaggio in qualche modo riescono a, insomma, a vedere la vita diversamente e a ricostruirsi. Mm-hmm. Questo è un po' il racconto del film. Volevo chiederti che fascia di età sono compresi, e poi come sei venuta a conoscenza di questa storia e poi hai deciso, e come mai hai deciso di raccontarla? I personaggi vanno dal più giovane, che ha una ventina d'anni, al più anziano, diciamo, che ha un po' più di 60 anni, quindi sono abbastanza rappresentativi, diciamo, di più generazioni, esatto. In realtà il punto di partenza di questo documentario è stato abbastanza particolare, perché era un annuncio che era uscito a Torino nel 95, di cui avevo sentito parlare, a cui avevo visto rispondere tantissimi miei amici, e che secondo me era una metafora molto forte, no, di un disagio che già si sentiva nel paese. In questi ultimi anni la cosa si è rafforzata, e ho pensato che questo potesse essere il punto di partenza per raccontare un po', come una quasi una fiaba all'italiana, la situazione del paese. Quindi questo annuncio questa volta è stato un annuncio ricreato, nel senso che è un annuncio che abbiamo messo noi dopo aver trovato un'azienda, insomma, in Alaska, eccetera, e quindi il punto di partenza è un punto di partenza molto costruito in realtà. E le persone che sono venute erano al di sopra delle aspettative, di quello che potevo immaginare, ma comunque sono proprio state delle persone che avevano il desiderio di cambiare aria, ecco. Oh, quindi un po' a cavallo tra la fiction e il documentario. Sì, esattamente, forse io vengo dal teatro, quindi non sono mai riuscita forse a vedere il documentario come una maniera proprio realistica del rappresentare la realtà. In questo più che in quelli precedenti sicuramente c'era una manipolazione all'inizio. In realtà poi, insomma, la realtà che è arrivata nel film è talmente forte che prende poi il sopravvento, ecco. Poi l'intervento non ha seguito, nel senso che poi è la realtà che ha scritto il film. Senti, come l'hai strutturato? Come hai seguito questi vari personaggi? abbiamo messo questo annuncio, i personaggi si sono presentati, quindi per questi colloqui di lavoro abbiamo avuto, ci siamo un po' spaventati inizialmente perché abbiamo avuto il primo giorno 400 mail di richiesta per partire in Alaska, quindi anche noi non avevamo capito fino a che punto, insomma, mettessimo il dito su qualcosa di molto scottante. E poi li ho seguiti per un paio di mesi a Torino prima della partenza, quindi un po' nella loro vita di tutti i giorni, e con questo, però con questa idea questa volta di andarsene. E, abbiamo scelto i personaggi che più ci hanno colpito un po' a caso inizialmente, poi stranamente questo mosaico si è fatto in maniera sempre più precisa, cioè uno risponde all'altro, i problemi dell'uno sono anche poi quelli dell'altro, c'è per esempio questo, il più anziano che ha perduto il figlio ed è questa la ragione che lo spinge ad andare lontano, e il più giovane che invece praticamente non ha mai vissuto col padre, è stato allevato dalla nonna, e quindi c'è un incontro di questi due personaggi per dire che trovano un modo di completarsi. Ecco, proprio in base anche a questo che mi dici, la curiosità è quali sono i tratti comuni che legano un po' tutti. Sono tutti dei personaggi fortemente toccati dalla vita, cioè non ce n'è uno che non abbia avuto la sua dose. Ognuno ha una ferita interna molto profonda, direi che questo forse è quello che li accomuna, e allo stesso tempo ognuno ha combattuto veramente ferocemente per rimanere a galla. Sono tra loro diversissimi, cioè c'è appunto il padre che ha perduto il figlio, c'è questo giovane ex soldato che ha fatto quattro guerre, estremamente insomma di destra, con dei tatuaggi abbastanza espliciti sulle braccia, eccetera. C'è il meccanico che di notte però si trasforma in una drag queen e che ha dei grossi problemi col padre che non accetta il suo essere gay. C'è una madre addolorata che non riesce, non ha perso il contatto con i figli per il suo passato di droga e che cerca di trovare una nuova via. C'è un'attrice che desidera diventare una star ma che non lo è, quindi un sogno a metà. Insomma, sono veramente molto diversi fra di loro, quello che li accomuna è sicuramente questa ferita interna che ognuno ha e che cerca di marginale attraverso questo andare così distante. Senti, la partenza per loro è una parentesi oppure un biglietto di sola andata? È un biglietto che diventa quasi di sola andata, nel senso che in molti pensano di finalmente di rimanere. Nel film il film si termina quando sono ancora là, quindi tutte le porte vengono lasciate aperte. In realtà sono tutti tornati, sono tornati più o meno tra l'altro alla vita di prima, però c'è qualcosa di molto forte che è cambiato internamente, cioè penso che questa sia la cosa che nel film si sente, che nessuno è più come prima, che questo viaggio così distante in realtà un viaggio profondamente interiore, in realtà appunto nonostante abbiamo girato in Alaska non sono i paesaggi, non ci sono poi così tanti paesaggi, così ecco, non è la natura ad avere questa importanza, questo il fatto di essere un posto esotico eccetera, è girato in Alaska ma potrebbe essere girato dietro Torino, nel senso che sono sempre le situazioni che abbiamo filmato, alla fine sono sempre situazioni molto molto intime, chiuse sui personaggi, proprio perché penso che sia proprio un viaggio interiore, ecco, da cui tornano, però tornano cambiati. Alessandra, un titolo francese per questo lavoro, che destinazione avrà e dove sarà possibile vederlo? Sì, è un titolo francese perché in realtà non abbiamo trovato i soldi in Italia per farlo, per cui è un film completamente italiano che si ritrova un titolo francese, è un po' assurdo ma è così. È stato prodotto, acquistato da Arte, che è questo canale franco-tedesco, è stata una gran fortuna perché ci ha permesso di fare anche proprio il film esattamente come lo volevamo, insomma è stato veramente una bella avventura da quel punto di vista. sta girando parecchio nei festival, è stato presentato a questo festival del cinema di Orel a Parigi, che è stata l'apertura, è stato recentemente al festival di Montreal, è stato a Salina, che è un festival meraviglioso, è stato al festival di Milano in settembre, anche lì ha vinto il premio Aprile, e quindi insomma ha una sua vita nei festival. Speriamo, stiamo tentando di fare un'uscita un po' alternativa nelle sale italiane, perché quello di cui ci siamo resi conto è che il pubblico italiano è quello che sente di più il film, in realtà. Penso che sia una storia che in questo momento in qualche modo ci tocca profondamente, noi italiani. Cioè, ho sentito delle reazioni molto forti, quindi con un distributore italiano abbiamo deciso di cercare di fare un'uscita al cinema del film, penso in primavera. Bene. Avete dei riferimenti online per maggiori informazioni? Bisognerebbe andare sì sul sito della Zeugma Film, Zeugma Films di Parigi, e Mirage l'Italien si trova il trailer del film e tutti i contatti per eventualmente, se vogliono, acquistare un DVD o avere altre informazioni. Io ti ringrazio, Alessandra, un abbraccio e a risentirci magari per l'uscita in primavera. Va bene, grazie, grazie mille a voi e buon lavoro. Ciao Alessandra. Arrivederci. Alessandra Celesia, regista del documentario Mirage à l'Italienne, menzione speciale alla 7ª edizione del Salina Doc Fest. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Ben ritrovato Alberto Crespi, ci sei? Eccoci qua, buongiorno, buongiorno. In quest'oggi in veste di neo direttore di Bianco e Nero, uno storico quadrimestrale del Centro Sperimentale di Cinematografia. Se non sbaglio, questa di questi giorni è la seconda edizione sotto la tua direzione, o sbaglio? Sì, è il secondo numero in uscita in questi giorni, sì. Allora, una rivista che è nata nel 1937, quindi per una volta dirigo una rivista che è più vecchia di me. Allora, questo numero è uno speciale per i 70 anni del Gattopardo. Intanto facciamo un passo indietro e il tuo ingresso in questa rivista, e anche cosa ha rappresentato e cosa rappresenta per il cinema italiano. Dunque, Bianco e Nero è la rivista più antica, e non dovrei dirlo io, ma posso dirlo perché parlo del passato, parlo dei direttori che mi hanno preceduto. È anche una delle riviste più prestigiose del nostro cinema, è la rivista edita dal Centro Sperimentale, dicevo prima che è nata nel 1937, e quindi è nata durante il fascismo, perché il fascismo, tra tante brutte cose, fece anche alcune cose intelligenti nel campo del cinema, come quelle di costruire gli studi di Cinecittà, di costruire una delle prime scuole di cinema in Europa e nel mondo, ovvero il Centro Sperimentale di Cinematografia, e di dotare il Centro Sperimentale di un organo, appunto, che è Bianco e Nero. Quindi una rivista che ha sempre avuto un'impronta molto didattica e anche molto accademica nel senso buono del termine, nel senso che è una rivista di studi approfonditi, di studi scientifici sul cinema. Io sono il primo giornalista che viene chiamato a dirigerla, quindi l'intento da parte di Stefano Rulli, che è il presidente del centro, e da parte di Carlo Vertone, che è uno dei membri del consiglio di amministrazione, che è stato il primo a chiamarmi per chiedere se questa avventura mi poteva interessare, l'intento è quello di diffondere l'accademia e l'approccio anche giornalistico. Per il momento, in questi primi due numeri, io mi sono divertito a spingere i docenti universitari, i prestigiosissimi docenti universitari che già scrivevano sulla rivista, e altri più giovani che sono stati coinvolti, a cimentarsi con temi anche d'attualità. Il primo numero che abbiamo presentato a Venezia era un numero sulla comicità italiana, che partiva da Totò e arrivava fino a Checco Zalone. Questo numero prende spunto dall'anniversario del Gattopardo, perché il Centro Sperimentale e la Cineteca Nazionale hanno appena organizzato un grosso evento sul Gattopardo che è in corso in questo periodo a Palermo con una grande mostra. Tra l'altro, apro parentesi, Alberto è riuscito in sala nella versione, sì, una versione ancora più estesa e ha riscosso un buon successo. Sì, sì, sì, è stato rimesso in sala nell'ambito di questa bellissima iniziativa della Cineteca di Bologna, che ripropone ogni mese in sala un classico del cinema restaurato. Il primo, gli ascoltatori forse lo ricorderanno, è stato Delitto Perfetto di Alfred Hitchcock. Sì. Il restauro del Gattopardo in realtà era una cosa in sinergia tra la Cineteca di Bologna e la Cineteca Nazionale, per cui, per carità, il mezzo secolo di questo capolavoro era uno spunto per parlare però non solo di Visconti del Gattopardo, ma un po' di come il cinema italiano anche oggi racconta la storia con la S maiuscola, spesso fingendo di parlare d'altro. Infatti nel numero ci siamo divertiti a inserire dei saggi sui contenuti storici che sono presenti in generi come lo spaghetti western piuttosto che il peplum, il film mitologico, ma anche per vedere come hanno parlato di storia, sempre con la S maiuscola, autori come Nanni Moretti, come Marco Bellocchio, come Luigi Magni, fino a Paolo Sorrentino. Per esempio c'è un saggio, secondo me, molto interessante di un docente che insegna in Inghilterra a Cambridge, ma è italiano, si chiama Pierpaolo Antonello, che mette a confronto il divo di Paolo Sorrentino con modelli anglosassoni come The Queen di Stephen Frears e The Iron Lady di Phyllida Lloyd. Quindi il modo di rappresentare i potenti, no? Anche i potenti viventi, come era il caso di Andreotti quando Sorrentino ha fatto il divo, come il caso della regina Elisabetta in The Queen. Quindi ecco, portare l'Accademia a occuparsi anche del cinema di oggi, del cinema che sta nelle sale, del cinema che la gente va a vedere, questa è la scommessa. Per il momento ci stiamo divertendo, tra altri due o tre numeri qualcuno ci dirà se l'abbiamo vinta o persa. Alberto, più dal punto di vista più strettamente tecnico, quante firme raccoglie, che formato ha e come è strutturato più o meno? Bianconero è un quadrimestrale, come dicevi tu, che non è facilissimo trovare, questo è un altro punto su cui dovremo lavorare. Comunque si trova nelle librerie e si può ordinare al centro sperimentale, sul sito del centro sperimentale. Ha un formato da libro, e questo numero che vi ho appena un po' raccontato, essendo un numero doppio, è di fatto un libro. Le firme sono tante, c'è un comitato di consulenti con i quali io lavoro a strettissimo contatto, che sono dei bravissimi docenti universitari che appunto io conoscevo bene già da prima, insomma. E poi è una rivista aperta, tra l'altro questa è una cosa che pochi sanno, ma per le riviste di taglio accademico è in uso anche in Italia una pratica anglosassone che si chiama, con un'espressione un po' tecnica, si chiama call for papers, la chiamata alle carte, io la chiamo un po' ironicamente la chiamata alle armi, nel senso che vengono messi online gli argomenti dei prossimi numeri e i docenti, gli studiosi che ritengono di avere qualcosa da dire su questi argomenti o ritengono di avere delle idee da proporre su questi argomenti possono appunto rispondere a questa chiamata e proporsi per scrivere. È un modo anche, spero, in futuro di reclutare nuove firme. Peraltro già in questo numero che prende spunto dal Gattopardo ci sono docenti giovani come Anton Giulio Mancino che insegna a Macerata, come Cristian Uva che è un giovane docente molto bravo dell'Università di Roma 3. Insomma, spero che sia anche un modo di reclutare delle forze nuove nell'ambito degli studi sul cinema, che sono molto, molto vivaci e molto presenti nelle nostre università e che spesso faticano un po' a trovare visibilità al di fuori dell'università, naturalmente. Sì, sì. Bene, Alberto, i riferimenti ce li hai anche dati nel corso della risposta. A questo punto credo che tu sia stato anche piuttosto esauriente. Un in bocca grazie al lupo, e noi ci risentiremo, grazie. Credo sicuramente, se ti già te l'avevo accennato, ma insomma la puntata del 2 gennaio dovrebbe essere dedicata alle cinquine dei film che sono usciti in sala e che consideriamo i le cose più belle che ci abbiamo sono state visto proposte. Stamattina il film di Paolo Virzì, che è un film piuttosto notevole, quindi potrebbe essere anche tratto, però forse uscirà in sala nel 2014, sì, ora esce, che mi fai pensare, esce in gennaio. Va bene, ne riparliamo fra un anno. Vabbè. Intanto pensiamo ai 5 del 2013. Esatto, un abbraccio Alberto. Grazie Federico, ciao. A presto, ciao. Alberto Crespi, neo direttore di Bianco e Nero, storico quadrimestrale del Centro Sperimentale di Cinematografia. Allora, abbiamo in collegamento Francesco Di Martino, regista del documentario Ustissu Sangu, che è una delle due proposte del mese per quanto riguarda distribuzioni dal basso. Francesco, benvenuto a Radio Onda Rossa, Visionari. Ciao Federico, intanto grazie mille per avermi contattato e avermi dato questa possibilità di parlare del mio film, che ormai è datato, diciamo, perché ne è passato di tempo, però... ci sono. Però anche il fatto, insomma, che lo abbia proposto in questo mese, a dicembre, distribuzione dal basso, insomma, mi sembra indicativo, anche se ha qualche anno il tuo film e viene riproposto adesso, vuol dire che mantiene una sua attualità. In che campo, Francesco, dici un po'? Allora, considera cioè che ovviamente il film sì è maledettamente attuale, perché gli sbarchi continuano. Il mio film ovviamente parla dell'arrivo dei migranti in Sicilia. Io per un anno intero ho seguito gli sbarchi nel 2008 e tutto quello che succede anche dopo lo sbarco, ovviamente. E quindi sì, quindi è molto attuale ed è stato riproposto per questo, ovviamente, perché in questo momento è anche sotto l'attenzione dei media come argomento, visto anche quello che sta succedendo proprio in questi giorni. Io non so se tu hai visto quello che è successo a Lampedusa, ad esempio. Sì, no? sì, c'è voluta di nuovo l'Unione Europea a bacchettare l'Italia, insomma. Sì, infatti, questo diciamo che è l'ennesima bacchettata, però di fatto queste questioni sono già conosciute, nel senso sono accadute cose anche peggiori a Lampedusa. Certo. Io ho fatto un altro lavoro con un collettivo che si chiama La Primavera in Esilio, dove seguiamo dei migranti tunisini che dalla Tunisia vanno verso la Francia, passando da Lampedusa e da Mineo, che è un altro centro, un altro CARA, un altro centro di espulsione e per richiedenti asilo, ovviamente, dove praticamente abbiamo fatto vedere anche in quest'altro lavoro cosa succede dentro il CARA e il CIE di Lampedusa, che ci sono giornalmente, diciamo, le rivolte dei migranti che si ribellano per lo stato in cui sono abbandonati. Tra l'altro vedevo oggi su uno dei quotidiani che trattavano l'argomento, ci sono strutture legate al mondo cattolico che gestiscono questi lager, e che più immigrati hanno sotto tutela, chiamiamola così, e più guadagnano. Da questo punto di vista, guarda, proprio due giorni fa parlavamo di questo, una presentazione che ho fatto sempre di questo film, parlavamo proprio di questo, del fatto che ci sono strutture che prendono dei soldi, quindi ovvio che non voglio generalizzare adesso e dire che sono tutte così, però cioè, sicuramente c'è chi ci mangia dietro, chi ne approfitta. Qua per restare, diciamo, vicino anche al film che ho fatto con lo stesso sangue, a Cassibile c'era una struttura gestita da un'associazione che collaborava anche con la Chiesa, che poi è stata chiusa proprio per una malgestione, perché dentro questa struttura dovevano esserci un tot di migranti e invece ne risultavano molto meno, ma loro prendevano soldi per un numero maggiore, e quindi poi questa viene definita una truffa a tutti gli effetti allo Stato. Ecco, in base anche alla tua ricerca, Francesco, dici un po' qual è l'odissea tipo di un migrante che sbarca o a Lampedusa o sulle coste della Sicilia? Ma io penso che prima di tutto bisogna dire che l'accoglienza è pessima, perché purtroppo oggi l'Italia ancora una volta sta dimostrando che non è pronta per accogliere i migranti, per tanti motivi. Io ne posso citare due. La prima è quella che, se continua ad esserci una legge come la Bossi-Fini, mi sembra ovvio che come dire, da una parte li accogliamo e dall'altra li respingiamo, quindi già questo diciamo che è una contraddizione, se così la vogliamo definire. Sì. Due, ci sono tanti altri modi ovviamente per dare la possibilità a questi migranti di arrivare qua e soprattutto dargli un'assistenza migliore. Ci sono alcune strutture, queste le voglio citare perché io ne ho viste tante, come delle comunità che ci sono qui in zona, che una volta che i migranti arrivano li accolgono e gli danno quello che gli serve, quindi andare comunque a scuola, conoscere la lingua, quindi fanno un percorso di questo tipo. Poi gli aiutano anche nella ricerca del lavoro, invece di finire nelle campagne a lavorare in nero per diciamo gli imprenditori che ne approfittano e sfruttano, anche perché tante volte poi succede, e questo te lo voglio raccontare perché è giusto dirlo. Io, mentre facevo le riprese di Ustissu Sango nel 2008, mi ero imbattuto in un imprenditore che non mi ha voluto poi raccontare la sua storia di fronte alla telecamera, per ovvi motivi, che dopo un mese che faceva lavorare questi migranti ogni fine settimana, diceva che poi li avrebbe pagato, che poi li avrebbe pagato, a fine mese, quando doveva pagare questi 15 sudanesi, invece di pagarli come giusto che doveva essere, ha telefonato ai carabinieri denunciando questi 15 migranti. E questa è una delle cose peggiori che possa succedere, e succede ancora, non solo nelle campagne siciliane, ma possiamo andare a Rosarno, possiamo andare in Puglia, possiamo andare in campagna, ci sono tante zone dove avviene ancora questo. Sì, perché, sì. Perché il migrante poi non ha diciamo diritto di potersi diciamo vendicare e dire no, non sono stato io, eccetera eccetera. Proprio in questi giorni, tra l'altro, ho appreso che nel paesino qua vicino a dove abito io sono di Noto, Pachino, quando la polizia becca qualche spacciatore o becca qualcuno, la prima cosa che dicono: me l'ha data il marocchino, me l'ha data il tunisino, cioè vanno subito ad incolpare gli stranieri. Certo. Perché sono quelli che poi in qualche modo non riescono a difendersi praticamente. Sì. Oh, Francesco, il titolo Ustissu Sango, raccontacelo un po', e poi anche dei riferimenti per su internet, oltre al fatto insomma che è online per distribuzione dal basso e quindi è fruibile, però per avere maggiori informazioni dici tu. Ustissu Sango perché penso che ogni migrante ha diritto alla vita, a vivere, quindi da questo mi è venuto il titolo. I riferimenti sono semplici, c'è il sito del collettivo a cui appartengo, perché oggi non c'è più il sito del film perché poi l'esperienza si è conclusa, però c'è il sito a cui appartengo, a questo collettivo, che si chiama frameoff.it, dove nella mia pagina, dove ci sono tutte le pubblicazioni che ho fatto, tra cui questa, ci sono dei riferimenti sul film e delle note tecniche, e anche dove si può vedere, perché il film non solo si può diciamo acquistare, anzi più che acquistare è una donazione quella che si fa. Sì. Su distribuzione dal basso, ma si può anche vedere liberamente, perché online, su Arcoiris TV, perché ho deciso di lasciare libera quest'opera per fare in modo che segua il suo corso. Principalmente questo. Sì, sì, sì. Beh, Francesco, io ti ringrazio, e visto insomma che si parla di un tuo lavoro di qualche anno fa, ci sentiamo spero prossimamente per altre tue opere. Con vero piacere, guarda, io sul tema migranti ne ho altri lavori, quindi sì, con vero piacere. Ci sarà modo. Io vi ringrazio intanto per avermi contattato e per avermi fatto partecipare a questo programma radiofonico. Bene, un abbraccio e a presto, Francesco. Grazie mille, a presto. Ciao. Ciao. Francesco Di Martino, regista del documentario Ustissu Sango, proposto una delle due proposte del mese di distribuzioni dal basso. È con noi Donatello Fumarola, coautore del libro Atlante sentimentale del cinema per il XXI secolo, che sarà presentato domani qui a Roma al Teatro Valle Occupato, domani 20 dicembre. Donatello, benvenuto a Radio Onda Rossa, Visionari. Ciao, ciao. Allora, mi fa molto piacere questa iniziativa di domani sera, un Atlante sentimentale, già il titolo ha tutto un suo fascino. Raccontaci un po' di questa avventura, Donatello. Da dove comincio? No, nel senso, il libro è una specie di viaggio che abbiamo fatto in compagnia anche di amici che sono entrati e usciti a più riprese, e le tappe erano, diciamo, vari registi che noi abbiamo molto cercato e molto amato, che sono abbastanza diversi, da Tarantino a Filippini, che nessuno conosce perché loro fino ad ora non hanno mai circolato, a Franco Maresco, un viaggio durato una decina d'anni, dal 2001 fino a settembre di quest'anno, e sono conversazioni un po' atipiche, diciamo, non sono proprio le classiche interviste, e un po' il senso era quello anche di, se vuoi, creare una mappa appunto sentimentale, una mappa inventata da noi, guidata puramente dai nostri piaceri, dai nostri godimenti e nostre ossessioni, di quello che è anche il cinema un po' degli ultimi 10, 15, 20 anni, che è cambiato abbastanza radicalmente rispetto a quello, diciamo, del secolo scorso, sia rispetto alle pratiche che rispetto anche a proprio la forma che prende. Cioè, un po' questo è genericamente un po' l'idea che guida il libro, che non è semplicemente una raccolta di interviste, sì, diciamo. Sì. È un po' più così, un po' più articolato, sì, un po', almeno ha l'ambizione di essere più articolato, sì, diciamo. Sì. Donatello, più o meno quanti sono stati i vostri interlocutori, e poi da questi come avete fatto poi la scelta da inserire nell'Atlante? Allora, quelli che sono dentro l'Atlante sono 50, sì, una cifra tonda. In realtà sono molti di più, sia gli incontri che, come si dice, gli incontri, punto, non c'è altro. Sì. La scelta di quelli che sono poi nel libro, in realtà, perché il progetto in realtà continua al di là del libro, è stata fatta in base anche all'intensità degli incontri, perché altri incontri che abbiamo avuto non sono stati altrettanto efficaci, belli, folgoranti, interessanti, perché poi le situazioni sono diverse, quindi ne abbiamo scartati, diciamo, una decina tra quei registi che appunto ci piacevano moltissimo, semplicemente perché magari sei lì e non scatta la scintilla. Quindi un po', diciamo, il criterio è un po' puramente questo. Sì. Poi anche da conversazione a conversazione varia, perché alcune le abbiamo fatte in casa, alcune in qualche festival, quindi in situazioni un po' più alienate, anche se vuoi, cioè dentro questa macchina spettacolare che sono questi festival, quindi diventa più occasionale, non sono tutti uguali, hanno varia sia intensità che durata, quindi, sì. Il criterio è stato un po' questo, quindi privilegiare quelle dove poi emergeva quello che noi cercavamo, che non era il sapere quanti film ha fatto David Lynch piuttosto che Emanuele Oliveira, ma parlare anche magari più spesso del presente. Sì. Quindi a volte hai anche interviste con registi dove citiamo solo un film perché si sta parlando di tutt'altro. Senti, sono state conversazioni a braccio, istintive, che hanno preso una loro direzione anche in base all'interlocuzione, o avevate anche uno schema di riferimento? No, tutte totalmente improvvisate. Poi in realtà, nel ripetersi degli incontri negli anni, ci siamo resi conto che a certe domande anche ossessive poi ritornano, quindi alla fine essendo sempre più o meno noi, anche le domande e il tipo di richiesta che siamo andati a fare a queste persone un po' andava sempre in una certa direzione, quindi in realtà, però no, tutto è molto improvvisato, insomma, raramente siamo andati lì con un foglio scritto con delle domande. Senti, tu sei una delle anime di Fuori Orario, ecco, è un progetto nato in quell'ambito o ha anche altre collocazioni? In piccola parte è nato anche in quell'ambito, nel senso che lavorandoci e facendo le cose anche per Fuori Orario, ad esempio alcune tra le prime interviste che sono nel libro noi le abbiamo già mandate in onda, ad esempio, non tutte, magari in parte, perché in TV non sempre hai tutto il tempo a disposizione, le conversazioni sono, alcune sono lunghissime, sì, quella con Ossio Sien dura 4 ore perché fanno andare, però poi sono state anche altre occasioni, e poi da un certo punto in avanti era solo finalizzato a questo progetto che ora è diventato un libro intanto, poi un giorno diventerà un archivio più aperto e più ricco di quello che è ora. Vediamo. Senti Donatello, quella di domani al Teatro Valle Occupato è stata pensata un po' come serata a flusso, con interventi di voi autori ma anche di altri ospiti, intervallati da proiezioni varie, cortometraggi e spezzoni. Sì, il senso della cosa di domani era, con l'occasione di presentare il libro, volevamo un po' fare una specie di piccola mappa di quello che si muove ora. Infatti abbiamo invitato vari amici, che alcuni che hanno fatto piccole tappe con noi nel libro, altri che in realtà non c'entrano nulla col libro, che però, tipo Quinlan, che sono un gruppo di giovani critici che hanno aperto un sito internet da poco, che però sono molto interessanti, hanno un punto di vista un po' più fresco rispetto a quello che si muove nelle riviste, quindi abbiamo chiesto a loro, sono due compagni di Roma, di intervenire, di portarci loro una cosa da mostrare. Verrà un amico dalla Slovenia che ci porta due suoi film eccezionali. Era un po' il senso, era quello un po' di fare lo stato del cinema oggi rispetto anche a come sta cambiando, nel senso si restringono i campi, appunto al di là del cinema industriale, e le persone si reinventano le cose, tipo David Lynch, di cui mostreremo parte un pezzo della conversazione con lui. Abbiamo chiesto a Ghezzi, a Enrico, se navigava nel sito di, se, cosa che farà lì in diretta, nel sito di David Lynch, per mostrare un po' anche regista che ormai, al quale nessuno ormai dà più soldi per fare lungometraggi, che cosa si è reinventato negli ultimi anni per continuare a fare cinema. Quindi un po' il senso era quello di, non di scattare una fotografia, però quello di mostrare e di smuovere un po' il cinema così come si presenta in un momento di cambiamento più che radicale. Beh, una serata che comprende anche materiale di Alberto Grifi, e mi sembra un'occasione succulenta, ricordiamolo. Allora, domani a partire dalle 20, che l'orario era, le 20:30 o le 21, non ricordo, Donatello. 20:30 al Teatro Valle Occupato, con Donatello Fumarola e chiaramente molti altri ospiti. Io, vabbè, ci vediamo domani lì, Donatello. Ok, dai. Con piacere. Un abbraccio. Grazie. Ciao Donatello. Donatello Fumarola, coautore del libro Atlante sentimentale del cinema per il XXI secolo, domani sera al Teatro Valle Occupato. Oh, ritroviamo Roberto Silvestri. Come stai, Roberto? Bene, ciao. C'è una giornata bellissima di sole su a Sulmona. Allora, intanto ti anticipo che il 2 gennaio faremo la puntata speciale con le cinquine che abbiamo preferito tra i film usciti in sala nel 2013, e tu spero sarai dei nostri. Sì, certo. E poi oggi ti sentiamo in veste di direttore della 31esima edizione del Sulmona Film Festival, che è in pieno svolgimento da ieri 18 fino al 21 dicembre. Io ero stato alla 30esima edizione lo scorso anno, sembrava che dovesse essere una provocazione vista la mancanza dei fondi, comunque avevate deciso di farla comunque, e allora come mai c'è anche una 31esima? Anche quest'anno l'abbiamo fatta come volontariato puro, sì, siamo tutti, sì, diciamo, senza nessun soldo, senza in mano, soldi. Quindi stiamo cercando di farla lo stesso, perché è anche una questione di principio, no? Visto che si taglia sulla cultura, certo, resistiamo, no? Certo. Per far vedere che invece non bisognerebbe farlo. Oh, per chi ci ascolta. Roberto, no, dimmi. No, stavi dicendo. Abbiamo fatto un programma ridotto all'osso. Sono 8 film in concorso per le prime e seconde, più 3 speciali, 3 eventi speciali. Bene. Per chi ci ascolta, ti stavo per chiedere qual è la caratteristica principale di questo storico festival che è il Sulmona Cinema. Ma è nato come festival che in qualche modo aveva a che fare con le esperienze dell'emigrazione, perché Sulmona è una zona di emigrazione, quindi le prime edizioni sono state fatte sulla base di una ricerca di cinematografie che in qualche modo sono, tra virgolette, inquinate dalla presenza di abruzzesi nel mondo, quindi Canada oppure Australia, eccetera. Poi a poco ci si è focalizzati sul nuovo cinema italiano che stava in qualche modo riemergendo dopo anni di orrori, e adesso abbiamo negli ultimi anni fatto anche delle edizioni provocatorie, tipo, non so, solo film di donne oppure solo cortometraggi invece che lungometraggi, perché i lungometraggi ci sembravano tutti asserviti a quelle due persone che decidono che cosa vedere e che cosa non vedere, che sono tipo quelli della Rai, e allora quelli di Mediaset, adesso sempre meno. Invece quest'anno, come provocazione, ci è sembrata la cosa più banale e ovvia prendere i film di una generazione ormai mica tanto giovane, perché il più giovane dei registi ha una trentina d'anni, il più anziano ne ha 60, sono comunque degli esordi. Il più giovane è il regista di Zoran, no? Matteo Leotto, sì. Il più anziano è il regista di Trans-Europa Hotel, Luigi Cinque. E, pensando che le cose estreme in questo momento sono forse le cose diciamo che hanno un valore di film esportabili all'estero, che hanno un design non decerebrato, che hanno una storia interessante, che hanno delle forme in qualche modo originali, no? E quindi sì, abbiamo scelto tra l'altro 4 film di non registi professionisti veri e propri, ma di attori: Luigi Locascio, La Città Ideale, o Valeria Golino, Miele, oppure di un musicista come Luigi Cinque, oppure di un di una drammaturga come Emma Dante, quindi sì, anche un po' spuri, e il resto sono il film di Andrea Segre, La Prima Neve, l'opera prima di Antonio Morabito, Gli Editori di Piscine, Salvo di Piazza e Grassadonia. E quindi questo è un po' il quadro del concorso. Ripeto, sono dei film che che nelle sale dovrebbero andare meglio, sì, di, sì, quanto, sì, non vanno, dovrebbero essere più sostenute, insomma dovrebbero essere quei modelli di cinema che si chiama, secondo me per errore, medio, però è un cinema effettivamente estremo, nel senso che è estremo nel design e anche estremo nel desiderio, sì, di trovare un pubblico che sicuramente ha e che invece glielo tolgono. È come se i produttori, i distributori, cioè chi controlla il cinema, sapesse benissimo cosa vuole il pubblico e non glielo dà. Sì, sì, sì. E noto con piacere che tutti i titoli sono già stati i nostri ospiti e gli autori. Beh, sì, qui a visionare, sì, perché sono film che hanno già girato in molti festival, no? Sì, poi sì, il reference, sì, system obbliga a questi giri di festival a 60 premi, però a parte questo io, sì, considero questi film davvero le cose migliori fatte. Mm-hmm. E appunto sono tra l'altro opere prime, per modo di dire, perché sono tutti cineasti di una certa esperienza. Certo. Oh, Roberto, e abbiamo attorniati da altre cose, sì, altre, che sono 3 film. Uno è in omaggio al presidente della giuria, che è Davide Riondino, un playmaker, no? Un, sì, poliedrico artista che è capace di fare qualunque cosa, dalla musica al cinema, alla televisione, eccetera. E di lui verrà presentato Venezia Salva di Serena Nono, che è un film in costume molto alla De Oliveira, la storia della Controriforma e degli spagnoli che vogliono massacrare la Repubblica Libera di Venezia. È un bel testo che Serena Nono un po' forse fa in omaggio anche al Ponte dei Sospiri, che è stato nel 1913 uno dei primi grandi lungometraggi del cinema italiano, grandissimo nel mondo, quindi un film che ricorda quel capolavoro muto. Poi facciamo una cosa che è molto interessante, che credo che si sia vista a Roma, forse ne avete già parlato, il film di Lloyd Kaufman, il creatore della Troma, che è Return to New Camp High, non so se l'avete fatto vedere, ne avete parlato, no, film, no. Un tra i migliori dell'anno, è un eco horror splendido, diciamo che potrebbe essere un po' la parodia di Adele, La vita di Adele volume 1 e 2, perché questo si chiama proprio Return to New Camp High volume 1, sì. Secondo me l'ha fatta apposta, perché è una storia lesbica ma finalmente ben dispiegata, no? Senza ritorni all'eterosessualità, e dentro questo ci sono anche delle storie pazzesche che riguardano gli effetti dell'inquinamento e dei mostri che escono fuori, che nella città di Ovidio delle Metamorfosi ci sta benissimo, e anche perché qui vicino c'è una delle discariche più pericolose d'Europa, che hanno scoperto 7 anni fa, che ci vorranno miliardi per rimetterla a posto, e che sta inquinando le acque e le falde acquifere di tutta la zona del Pescarese di Sulmona. Quindi vi prego di vedere questo film, se riuscite a vederlo, perché è uno degli horror più divertenti, più controculturali, diciamo, che ancora si riescono a realizzare in America, e che questo Lloyd Kaufman è uno dei pochi indipendenti rimasti, bravissimo. E poi invece un film che vi ha fatto molto discutere lì, perché il film di Marco Simon Puzzoni, Come il vento, sì. quello dedicato alla miserere, no? So sì. Che Radio Onda Rossa non ama molto i film, e anch'io apparentemente i film del direttore del carcere, che in qualche modo viene visto nei suoi chiaroscuri, no? E non come, diciamo, l'elemento diciamo il servo delle istituzioni, il burocrate, la banalità del male, insomma, in qualche modo. Sì, no? Fin come dalla sua nascita la radio, insomma, si è occupata del carcere, ma dal punto di vista di chi lo subisce, sì, insomma. Ma anche noi ce ne siamo sempre occupati come cinefili, no? Sì, se sì, ci piace sì. Molto, che ne so, La fuga da Alcatraz, oppure la sporca ultima meta, che fanno capire che passa, sono fatti, no? I certo. Direttori di carcere, che sono delle istituzioni repressive. Devo dire però che, insomma, la legge Gozzini si chiamava, no? Sì, che ha permesso sì. un certo cambiamento nelle situazioni del carcere, e effettivamente questa comunista, no? della Miserere, che è stata una delle prime donne direttrici del carcere, e naturalmente ha dovuto assumere un ruolo di colonnello, di generale, no? Questi donne e uomini terribili, perché in una situazione come quella immagino che bisogna farlo per sopravvivere. Beh, insomma, viene analizzata in questo film nei suoi chiaroscuri politici, anche perché effettivamente il tentativo di cambiare il carcere è stato fatto da funzionari pubblici, insomma, più o meno bravi, che hanno cercato di imboccarsi le maniche, e il fatto che sia stato ucciso l'uomo e che lei sia stato costretto al suicidio non è che sia una cosa poco importante dal punto di vista politico, sì, perché sì. Da una parte c'è una macchina del fango che viene proprio utilizzata già nel 1989 o 90, proprio per portare probabilmente un'ipotesi stragista o comunque di controllo mafioso dello Stato, che poi vedremo che cosa, no, succederà qualche anno dopo. E effettivamente l'uccisione di questo animatore del carcere, uno che cerca di fare regia teatrale, di allevare talenti teatrali dentro il carcere, quindi, insomma, Pisa Cane, la riabilitazione, non il massacro dei detenuti. E insomma, il fatto che poi alla fine di questo processo si sia stabilito che c'erano dei legami tra Andrangheta, Camorra e corpi separati dello Stato, che sono stati in pratica questi a creare tutto il movimento di massacro anche dei funzionari pubblici, che cercavano di applicare la legge in modo democratico, e insomma fa sì che sia un testo comunque da discutere, da vedere, certo. Da discutere. Sì, sì, sì, sì. Oh, Roberto, in chiusura mi veniva in mente anche il fatto che tutto si svolge come sempre al Cinema Pacifico, che nel corso dell'anno è l'unico cinema di Sulmona, e credo anche sia inutilizzato. Dunque sì, c'è un multiplex che è in vendita qui attorno, che però stranamente quei film che ti ho detto non li ha fatti, no? Che è una cosa allucinante, soprattutto, diciamo, Oltre il vento, che è proprio girato qui in gran parte, perché Armida Miserere si è uccisa proprio nel carcere di Sulmona. Sì, sì, sì. Ma tutti questi film, Lagolino, Miele, eccetera, non sono stati dati nel multiplex, quindi ancora mi sembra anche in atti di autolesionismo capitalista, no? Perché insomma sono film che in qualche modo servono a dimostrare, anche a inorgoglire, insomma, l'Italia c'ha dei cineasti decenti. Il Cinema Pacifico è pubblico, adesso ci sarà un'asta per la gestione di questo cinema, è chiuso da 2 anni, si riapre in occasione del festival, ha dei problemi serissimi come tantissimi altri cinema italiani dei centri storici, perché non sono dotati di attrezzature digitali di un certo livello, per cui è anche brutto, no? Lasciare la casa dove c'hai magari lo schermone a alta definizione, andare al cinema a vederlo peggio che a casa tua, insomma è una cosa allucinante. Quindi il comune dovrebbe in qualche modo dimostrare che se vuole un festival, ma anche di interesse regionale, se non nazionale, se non diciamo internazionale, almeno di aiutare, no, a dotare questi cinema di impianti a alta definizione, 2K, 4K eccetera, per fare in modo che almeno nei festival si vedano i film in modo decente. Purtroppo anche perché è stato rubato un proiettore di un certo livello 2 anni fa e non si sono mai trovati i responsabili né il proiettore, insomma le proiezioni non sono di quel livello che invece sarebbero necessarie. Sì, sì. Allora Roberto, io ti saluto, ricordiamo 31esima edizione del Sulmona Cinema Film Festival in pieno svolgimento fino al 21 dicembre, i riferimenti credo siano online per quanto riguarda il programma e tutto quanto. Io ti abbraccio, a risentirci presto, ciao. Direi anche il 2 gennaio. Sì, sì. Un abbraccio. Tra un po'. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene, come dicevo poc'anzi a Marco in linea per un gran finale, Marco Pontecorvo, intanto ben ritrovato su queste frequenze a Radio Onda Rossa, Marco. Grazie, ciao. Ciao. Tra l'altro, se non sbaglio, tu sei stato uno dei fondatori di un'altra esperienza simile, una delle cosiddette prime radio libere in Italia e qui a Roma. Ma insomma, io sempre esterno, non ho mai fatto direttamente, abbiamo okay. fatto anche di tutto, da proiezioni a cose, però no, poi mai ero sempre mezzo coinvolto, mai del tutto. Vabbè, comunque si tratta di Radio Città Futura. Allora, con te per parlare di una bella iniziativa che come Cinevalle stiamo organizzando al Teatro Valle Occupato per domenica, in cui ci sarà, visto che ricorre il quarantennale dall'operazione Ogro, quella che mise fine alla vita del Luis Carraro Blanco. Il delfino di Franco, sì, in quel della Spagna sotto il regime, con la ripubblicazione, anzi con la pubblicazione dell'edizione finora inedita in Italia del libro Operazione Ogro di Eva Forest, che scrisse sotto lo pseudonimo di Julien Aguirre, una versione inedita, dicevo, in Italia, e da quel libro poi è stato tratto il soggetto per l'ultimo film di tuo papà Gillo Pontecorvo, ovvero sia Ogro. Allora facciamo la presentazione di questo libro, che esce per la prima volta integrale in Italia, e poi la proiezione del film, e poi avevo il piacere di invitarvi sia te che tua mamma alla proiezione, anche per dire 2 parole. Tu eri molto piccolo, però insomma dici anche che ricordi hai legati a quel film. Sì, abbiamo proprio fatto ieri i conti con mia madre, perché gli ho detto spero di ricordarmi qualcosa. Lei mi ha detto eri molto piccolo, poi abbiamo fatto i conti, non ero così piccolo perché avevo 13 anni comunque, quindi tanto che mi ricordo tante cose anche come episodi. Mi ricordo che siamo arrivati, che papà stava girando una nottata in cui facevano delle scritte sui muri dei ragazzi, poi subito dopo siamo andati in una scuola il giorno dopo, dove giravano e c'era questo maestro che con una bacchetta di legno diceva non siete baschi, siete spagnoli, e loro dicevano baschi e lui gli dava le bacchettate, e mi ricordo che purtroppo, siccome non recitavano i bimbi particolarmente bene, c'erano delle protezioni sulle mani, e a un certo punto non ottenendo un vero pianto, una vera commozione, loro che dicevano basti così, proprio nel momento in cui noi ragazzini, io, mio fratello e l'altro ancora, stavamo arrivando sul set, papà decise di togliere le protezioni ai bambini, per cui tutta la truppa ci guardò male, ne fecero solo una, naturalmente venne bene perché loro la bacchettata l'hanno ricevuta davvero, e quindi erano più, insomma, queste mi ricordavo tante cose, compreso il fatto che papà in quel momento era molto, siccome loro erano nascosti dentro questo appartamento eccetera eccetera, parlavamo ieri proprio con mamma, diciamo, lui ha fatto quasi una clausura lui stesso in quel periodo, non usciva mai eccetera eccetera, forse per ripercorrere un po' il percorso dei protagonisti, che erano chiusi nell'appartamento scavando questo tunnel che poi ha fatto saltare per 5 piani la macchina blindata di Carrero Blanco. Sì. Oh, Marco, un film importante, nel cast una gran parte di Gianmaria Volonté, l'ultimo film di tuo padre, e un film che ha avuto un periodo di gestazione complicato e lungo, anche perché doveva uscire nel periodo del sequestro Moro, e poi riuscì ad uscire al Festival di Venezia in quell'anno in cui era diretto da Carlo Lizzani, e ottenne anche un buon riscontro. Sì, andò benissimo. Invece mi ricordo anche altra cosa, anche se ero piccolo, che c'erano stati tanti problemi, hanno sfondato le vetrine di un cinema a Genova, insomma non era l'uscita, era andato pure bene, però mi ricordo che c'erano, perché era un periodo molto caldo, poi c'era stata il rapimento Moro e lì si parlava di terrorismo, se era giusto o non giusto, quindi era anche per loro un momento difficile e una cosa difficile da trattare, tant'è vero che credo che siano tornati anche sulla sceneggiatura mettendo una sorta di appendice per cui il film parte e poi torna indietro come in flashback, e credo che in realtà tutto quello narrato al centro era la prima sceneggiatura e poi hanno aggiunto una testa e una coda. Sì. Se ricordo bene. Sì. Proprio causato dal fatto che c'era la preoccupazione in quel periodo, il terrorismo, il caso Moro, eccetera, eccetera. Quindi è stato un po' travagliato di sicuro il percorso di Ogro. Sì. Però, insomma, è uscito fuori bene. E, sì. Tra l'altro, noi ci eravamo sentiti invece con te per il tuo primo film da regista, Parada, e ci sarà modo domenica sera di stare di nuovo insieme, e anche per questo momento importante, questo quarantennale che vede, ricordo, allora la pubblicazione del testo in versione inedita in Italia, ossia la versione integrale del libro da cui è stato tratto il soggetto per il film Ogro. Marco, ci sarai tu, ci sarà tua mamma, e a questo punto ci diamo appuntamento alle 20:30 di domenica. Va bene, allora ci vediamo là. Un abbraccio, sarà grazie, un piacere. Un abbraccio. Ciao Marco. Grazie. Bene, Marco Pontecorvo, e con lui, che sarà al Valle domenica sera, diamo lo spazio al Teatro Valle Occupato. Per quanto riguarda Visionari, l'appuntamento è giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Le info sulla trasmissione le trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia sulla pagina Facebook, che per quanto riguarda le comunicazioni, questo è l'indirizzo di posta elettronica, ossia visionari@ondarossa.info. Buon proseguimento e alla settimana prossima.